se questa terra è infuocata vuoi calpestare. E allora torniamo in diretta, spezziamo un po' la cronaca, siamo in diretta con Alessandra Magrini, in arte attrice contro, ci senti? Buongiorno a tutti, voi mi sentite? Sì. Sì, che andiamo a parlare di un tuo spettacolo, si chiama Rosso Vivo, uno spettacolo su Valerio Verbano che farai stasera per la seconda volta a Roma, penso, dopo le due, uno spettacolo e una replica al Teatro dell'Orologio, e lo fai stasera a Astra 19 a Via Capraia. Se ci racconti un po' perché hai voluto fare questo spettacolo, anche un po' insomma come è fatto, cosa ha voluto dire per te, insomma, poi anche andarlo a fare proprio oggi nel territorio dove Valerio è vissuto. Allora, questo è molto emozionante sicuramente. Ho deciso di fare uno spettacolo su Valerio un po' di tempo fa, sinceramente, perché era una storia che comunque mi coinvolgeva profondamente. E poi ho letto il libro di Carla e ho capito che forse era quella la strada per parlare di Valerio, perché personalmente, insomma, anche con le mie idee così vicine a quelle di Valerio, sarebbe stato difficile costruire uno spettacolo lucido e super partes, no? E quindi mi sono rifatta al libro di Carla ed Alessandro Capponi per riuscire ad essere meno autoreferenziale. Non mi aspettavo un tutto esaudito al Teatro dell'Orologio, sinceramente, anzi, cioè, è stata una bellissima sorpresa. Questo vuol dire che Valerio è sentito e che è una storia che ha richiamato tanta gente. Farlo all'Astra mi emoziona sicuramente tantissimo, anche se spero, perché il bello del teatro poi è questo, che quello che tu sei non lo puoi cancellare. Le prime repliche sì, sono piaciute, è venuta la gente, i commenti mi hanno scritto belle cose, però a mio avviso, come autocritica, non lo so se è poi una critica, è che ero troppo coinvolta, ancora c'è troppo la militante nell'interpretazione. Dovrei cercare ancora. Magari questo è anche un po' inevitabile. Poi quello che ti voglio chiedere è che sicuramente la storia di Valerio Verbano, del suo assassino, storia anche di militante politico, non solo, insomma, è uno degli episodi di sangue di assassini politici che avvengono più tardi sugli strascichi, insomma, della Roma degli anni 70 e 80. Ma soprattutto, insomma, possiamo dire sicuramente è quella ancora adesso tra le più sentite. Un anno fa un enorme concerto a Piazza Sempione per il